Care amiche e care amichesse, bentornate su Radio Virus e su Folk. Oddio, oggi ultimo podcast e partono cantando. Qui da Tavolo Queer Macao e per le canzoniere vi parla e vi saluta la Carlessa. E come suggerisce il colore di questa puntata? Il blu. Oggi parliamo di terra, terra di chi parte in cerca di lavoro, in cerca di cibo, in cerca di via di fuga e terre dove invece lo Stato ci manda a morire in guerra. Ma abbiamo fretta di partire e cominciamo subito con due canzoni, due canti strettamente intrecciati tra di loro nel segno della rivisitazione del canto popolare che vi facciamo sentire in una mescolanza uno dopo l'altro. E partiamo subito con Domenico Modugno, Amara Terra Mia, e Giovanna Marini, Casca la Liva. Sole alla valle, sole alla collina, per le campagne non c'è più nessuno. Addio, addio, amore, io vado via, amara terra mia, amara e appena sentito due rielaborazioni, la seconda filologica, la prima invece creativa e pensata per la circolazione commerciale dello stesso canto, che è un canto che parla di emigrazione. È bello pensare che nel 1971, anno in cui è stata pubblicata Amara Terra Mia, ci fossero canti destinati al grande pubblico che parlavano dell'emigrazione dall'Italia e all'interno dell'Italia. Pensiamo anche a Tenco di Ciao Amore Ciao, ma anche più recentemente a De Gregori con L'abbigliamento di un fuochista. Gli accordi, le tonalità erano Mi minore e Re minore, comunque gli accordi sono gli stessi spostati di un tono. Se prendiamo il Mi minore abbiamo Nebbia alla valle, anzi sole qua, sole alla collina, qua siamo al Mi minore, Do maggiore, settima, Mi minore, stessa cosa e il ritornello, Mi maggiore, settima, La minore, io vado, si settima via, Mi minore, amara terra mia, amara e bella, Mi minore. settima mi. Qua scusatemi, forse ho fatto un po' di casino io, comunque il concetto era questo. E cogliamo anche l'occasione per fare una precisazione, visto che Casca e la Riva viene da Bella Ciao ed è una rielaborazione di canto popolare, Bella Ciao, che presenta appunto Bella Ciao nella versione delle Mondine e nella versione dei Partigiani, probabilmente contiene un falso storico che si è propagato fino ai giorni nostri, anche fino alla nostra seconda puntata, e cioè quello di presumere che la Bella Ciao delle Mondine sia anteriore a quella partigiana. Invece è possibile che sia l'esatto contrario, perché Vasco Scansani afferma di aver composto nel 1952 le parole della versione delle Mondine, mentre invece quella partigiana era attestata già dal 44. Di tutto questo parla Cesare Bermani, che è uno storico ma anche cantante, l'abbiamo sentito cantare nella scorsa puntata in un suo libro, credo pubblicato proprio quest'anno, su Bella Ciao. Vi lasciamo con questo spunto di ricerca, chi in futuro vorrà impegnarsi a illuminare i trascorsi dei nostri canti sarà la benvenuta. Vi ricordiamo che per comunicare con noi basta continuare a scriverci a folk.oddio@canaglie.org, perché anche se oggi partiamo siamo sempre qui e sempre pronte a cantare con voi. E passiamo a altri canti di migrazioni interne e di persone che a fine Settecento se ne vanno a lavorare, ma forse anche a morire in terra malarica, con un canto che forse è il suo più famoso tra quelli che appunto ha riscoperto lei, Caterina Bueno, ed è Maremma Amara, che passiamo subito ad ascoltare. Questa era Caterina Bueno che canta Maremma Amara. Per farla in mi maggiore gli accordi sono mi mi mi mi mi mi mi mi mi la la la la la la la mi mi si si mi mi, tutto maggiore. E questo era un canto di migrazioni all'interno del territorio italiano per andare a rischiare la vita e mettere insieme il necessario per un boccone di pane andando a lavorare in Maremma, zona malarica. Ci sono moltissimi canti che invece parlano proprio di emigrazione fuori dall'Italia. Canti a cui sarebbe stato bene dedicare un'intera puntata, però adesso ne presenteremo soltanto un paio, lasciandovi però l'invito magari a ricercarne altri, perché ci raccontano storie interessantissime che sarebbe molto bello diffondere anche per ricreare un minimo di coscienza del fatto che i fenomeni di criminalizzazione e razzializzazione che adesso utilizziamo per opprimere chi viene a fare i lavori pesanti per noi sono stati esattamente gli stessi che abbiamo affrontato noi quando questo paese lo lasciavamo. E torniamo sempre proprio a Caterina Bueno, che con un canto che si chiama Italia bella, mostrati gentile, ci racconta delle migrazioni verso il Brasile a fine 800. Gli accordi sono soltanto due, Re maggiore, La maggiore e Italia bella, mostrati gentile. Italia bella, mostrati gentile, e figli tuoi non li abbandonare, se non ne vanno tutti in Brasile, non si ricordano più di ritornare, ancora facci sarebbe da lavorare, senza stare in America a emigrare. Il secolo presente qui ci lascia, il 1900 s'avvicina, la fame ci ha dipinto sulla faccia, e per guarirla non c'è la medicina. Ogni po' noi si sente dire no, là dove è la raccolta del caffè. Ogni po' noi si sente dire no, là dove è la raccolta del caffè. L'operaio non lavora, c'è la fame e lo divora, e qui braccianti non sanno come si para andare avanti. Spereremo il 900, finirà questo tormento, ma questo è guaio, il peggio tocca sempre all'operaio. Ogni fondo e si sente dire vo, là dove è la raccolta del caffè. Ogni fondo e si sente dire vo, là dove è la raccolta del caffè. Non ci rimane più preti e frati, moniche di convento e cappuccini, e certi commercianti disperati, di tasse non conoscano confini, verrà un dì che anche loro dovranno partire, là dove è la raccolta del caffè, verrà un dì che anche loro dovranno partire, là dove è la raccolta del caffè. Ragazze che cercavano marito, vedan partire il loro fidanzato, vedan partire il loro fidanzato, e loro restano qui, voi sorcurato, verrà un dì che anche loro dovranno partire, là dove è la raccolta del caffè. Le case restano tutte stigionate, l'affittuari perdano l'affitto, e i topi fanno lunghe passeggiate, vivano tranquilli con tutti i diritti, verrà un dì che anche loro dovranno partire, là dove raccolta del caffè, verrà un dì che anche loro dovranno partire, là dove è la raccolta del caffè. E questa era Italia bella, mostrati gentile, sulla fuga di massa dall'Italia che non offre lavoro a fine 800 verso le piantagioni. Ricordiamoci di chi adesso nelle piantagioni invece lavora qua in Italia in condizioni di sfruttamento, criminalizzazione, e ricordiamoci dei braccianti e delle braccianti che hanno incrociato le braccia proprio l'altro ieri per lo sciopero del 21 maggio. E la prossima storia che i canti di emigrazione italiani ci raccontano invece ha a che fare con una morte in mare, ed è un canto che in genere racconta la storia di una ragazza. Noi adesso ve lo facciamo sentire in una versione dove in realtà canta anche una voce maschile, ma se compariamo con tutte le versioni italiane sembra proprio che si parli di una ragazza che parte. Questo è

nella sezione sul bastimento invece bastimento che bello è pronto, re minore, re, la minore. Quando fu a metà del mare, quindi sono mi, la la la, bastimento, mi maggiore, se sprofondò. E la parte sulla rosina, morta e smembrata dei pesci, è sempre in la minore e mi maggiore. Ma tornando alle partenze, e tornando a noi che siamo su folk, oddio, e che possiamo sempre essere contattate a folk.oddio@canaglie.org, tornando appunto alle partenze, parliamo invece stavolta di partenze per la guerra, non di fughe dalla guerra, ma partenze per via della coscrizione forzata. E questo è un canto di inizio dell'Ottocento che parla proprio delle guerre napoleoniche, quando di Francia e di Germania ci vengono a prendere con la forza per farci combattere, e condivide la stessa melodia di Maremma Amara. E questo è un canto che si chiama Partire Partirò, e che adesso ascoltiamo nella rielaborazione e interpretazione, ascoltiamo soltanto un frammento di tutto il pezzo, così come è stato rielaborato appunto da Daniele Sepe con la voce di Ginevra Di Marco, che dalle vecchie collaborazioni con Ferretti e Company negli ultimi anni invece poi si è data anche lei al folk revival italiano. Daniele Sebbe invece ve lo straconsigliamo per qualsiasi cosa, che ha fatto un gran lavorone di riscoperta e di presentazione al grande pubblico, non solo di cose italiane ma di moltissimo altro. Partire partirò. Questa che purtroppo dobbiamo tagliare è Partire partirò, o Partirò partirò, o Canto dei coscritti, che probabilmente è il titolo originale, composizione di Anton Francesco Menchi sull'inizio dell'Ottocento, sulla melodia di Maremma Amara. La sentiamo eseguita qui da Daniele Sepe con Ginevra Di Marco in sol. E la la strofa è esattamente come quella di Maremma Mara, c'è un ritornello che in Maremma Mara non c'è ed è... scusatemi, che parte dal re. Dai che partenza amara, Gigina bella, mi convien fare, sono coscritto e mi convien marciare. Re re re re re so so so so so re re re re re so so do do do do do so so so so re so. Daniele Sepe e Ginevra Di Marco. Ma tornando alle partenze, il prossimo canto di nuovo ci parla di coscrizioni ed è un canto di disperazione e di protesta, un canto per cantare il quale si poteva essere fucilati durante la Prima Guerra Mondiale e parla della battaglia di Gorizia del 4, che durò dal 4 al 17 agosto del 1916 e si chiama O Gorizia, tu sei maledetta. Questo è il canto che valse nel 1964 una denuncia al Nuovo Canzoniere Italiano, che lo presentò come parte di quello spettacolo Bella Ciao, le cui canzoni sono appunto incluse in quel disco che si chiama Le Canzoni di Bella Ciao, dal quale abbiamo passato un sacco di brani, anche Casca la Liva proprio oggi, di cui è proprio adesso stiamo per trasmettere la versione di O Gorizia. E appunto valse una denuncia per vilipendio alle forze armate italiane ad opera di un ufficiale dei carabinieri che era presente in sala a Spoleto quando al Festival dei Due Mondi nel 1964 il Nuovo Canzoniere Italiano presentò questo canto, e adesso ve lo facciamo sentire proprio dalla registrazione di quello spettacolo lì, Le Canzoni di Bella Ciao, O Gorizia, tu sei maledetta, in sol minore. La mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia, le terre lontane, e dolente ognun si partì. Sotto l'acqua che cadeva al rovescio grandinavano le palle nemiche, su quei monti, colline, gran valli si moriva dicendo così: O Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. Povigliacchi, che voi ve ne state con le mogli sui letti di lana, schernitori di noi carne umana, questa guerra ci insegna a punir. Voi chiamate il campo d'onore questa terra di là dei confini, qui si muore gridando assassini, maledetti sarete un dì. Cara moglie, che tu non mi senti, raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini, che io muoio col suo nome nel cuore. O Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per tutti. Abbiamo sentito O Gorizia, tu sei maledetta, cantava Sandra Mantovani con il nuovo canzoniere italiano proprio in Bella Ciao, lo spettacolo del 1964, che valse la denuncia al canzoniere italiano proprio per la strofa che dice Sol minore. Traditori, signori, re maggiore, ufficiali, sol minore, che la guerra l'avete voluta. E qui siamo do minore, fa maggiore, si bemolle maggiore. Scannatori, do minore, di carne, re settima venduta, sol minore. E con gli stessi accordi e rovina della gioventù. Questo è un pezzo bellissimo, eh? Questa terra al di là dei confini, è questo pezzo sulla terra che ha fatto entrare il canto nella nostra scelta per quest'ultima puntata di Folk. Oddio, questa terra al di là dei confini, la chiamano il campo d'onore, ma qui si muore gridando assassini, maledetti sarete un dì. E qui siamo su Folk, oddio. Vi ricordiamo che potete scriverci a folk.oddio@canaglie.org e ci spostiamo adesso verso un altro canto che parla di terra. Ed è un canto che è stato pubblicato all'inizio degli anni 70 ed ha conosciuto una nuova celebrità dalla fine degli anni 90, diciamo così. È stato anche reinterpretato da Vinicio Capossela. La versione standard che sentiamo fatta da tutti e tutte adesso e che sentiremo anche tra poco è molto più corta di quella originale, che invece è stata pubblicata nel 1873. Era un poema di 22 strofe con il titolo Esame di ammissione del volontario alla Comune di Parigi, e parla proprio appunto della Comune di Parigi, ed è conosciuto adesso con il nome di Dimmi buon giovane, o come stiamo per sentirlo ora, Dimmi bel giovane, interpretato dai Montelupo nel loro canzoniere anarchico del 2014, e non nascondo una certa soddisfazione nel sentire quella bella voce maschia dei Montelupo che apostrofa un bel giovane. Io mi faccio tutto un po' un trip omoerotico su questa cosa, e se voi lo volete fare con noi, il trip omoerotico è in sol maggiore. Sol maggiore, la minore, re maggiore, sol maggiore. Provate a seguire e ci torniamo dopo. Dimmi bel giovane. Lavora. l'abita è un vile chi lo ignora. Il tempo è dei filosofi, il tempo è dei filosofi. La casa è di chi l'abita è un vile chi lo ignora. La terra dei filosofi è terra di chi la lavora. E qui si conclude il nostro sogno omoerotico presentatoci dai Montelupo, il cui cantante si rivolge al bel giovane che pugna per la comune. E tutto questo avviene in sol maggiore, la minore, quindi sol maggiore, la minore e settima. Dimmi bel giovane, so so so la la la, onesto e biondo, onesto la la la, re re re, re so. Dimmi la patria tua qual è, tua qual è. Questi erano di noi del settima sol. So so so la la la, re re re re, so so so so so, so so so la la la, re re re sol, re re re sol. La casa di chi l'abita sol maggiore è un vile chi lo ignora, re settima e via dicendo. Il tempo è dei filosofi, il tempo è dei filosofi. Casa di chi l'abita è un vile chi lo ignora, il tempo per filosofi, anzi qua cambiano. La terra per filosofi è terra di chi la lavora. Insomma, questo Dimmi bel giovane, canto risorto a nuova celebrità nel repertorio anarchico, e passiamo a quello che invece forse è il canto del repertorio anarchico italiano più famoso in assoluto, che sulla melodia di un canto toscano, Addio a Sanremo, e contesto invece scritto da Pietro Gori nel 1895, quando fu costretto a lasciare Lugano, dove si era rifugiato in esilio politico con altri 12 compagni anarchici, è appunto Addio Lugano Bella. L'esilio era motivato dalle retate contro anarchici e socialisti del governo Crispi a seguito dell'omicidio per mano di Sante Caserio, di cui abbiamo parlato brevissimamente nella seconda puntata Sorelle Partigiane, il 24 giugno del 1894 a Lione. E Addio Lugano Bella ve la facciamo sentire, cantata niente meno che da Milva. Tra le mille versioni che esistono, ho scelto quella che da bambino mi è capitato di sentire per primo, e che era per prima, e che era inclusa, è inclusa in un disco che qualche anima pia ha messo a disposizione sul tubo dell'internet, un disco del 1965 che si chiama Canti della Libertà, in cui Milva ci canta in fa maggiore Addio a Lugano, sugli accordi di un valzerino, fa maggiore, sol minore, do settima. Milva, Addio a Lugano. Addio Lugano bella, o dolce terra pia, scacciati senza colpa gli anarchici van via, e partono cantando con la speranza nel cuore, e partono cantando con la speranza nel cuore. Ed è per voi sfruttati opere poi lavoratori che siamo incatenati al par dei malfattori. Eppur la nostra idea è solo idea d'amore. Eppur la nostra idea è solo idea d'amore. Anonimi compagni, amici che restate, le verità sociali da forti propagate. E questa la vendetta che noi vi domandiamo. E questa la vendetta che noi vi domandiamo. Ma tu che ci discacci con una vil menzogna, Repubblica borghese, un dì ne avrai vergogna. Ed oggi t'accusiamo in faccia all'avvenir. Ed oggi t'accusiamo in faccia all'avvenir. Scacciati senza tregua, andrem di terra in terra a predicar la pace ed a bandir la guerra. La pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori. La pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori. Helvetia è il tuo governo, schiavo d'altrui si rende, d'un popolo gagliardo le tradizioni offende. E insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell. E insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell. Addio cari compagni, amici luganesi. Addio bianche di neve, montagne ticinesi. I cavalieri erranti sono trascinati al nord. I cavalieri erranti sono trascinati al nord. E questa era Milva che cantava Addio Lugano Bella in fa maggiore, per esempio. Scacciati senza tregua, fa maggiore, andrem di terra in terra, sol minore, a predicar la pace, do settima ed a bandir la guerra. Fa di nuovo la pace tra gli oppressi, do settima, la guerra agli oppressor fa. In alcune versioni qua si sente anche di nuovo lo stesso giro di prima, quindi la guerra tra gli oppressi, sos minore, la pace da settima agli oppressor. O addirittura la pace tra gli oppressi, quella era un re settima prima del sol minore, e poi di nuovo tutto uguale. Esiste una strofa aggiuntiva di Addio a Lugano che fu composta dopo che Gaetano Bresci uccise Umberto I alla stazione di Monza, come abbiamo sentito nella puntata scorsa. Non è di Pietro Gori, è anonima e fa: Vittorio Emanuele, figlio d'un assassino, viva Gaetano Bresci che ha ucciso Umberto I. È questa la vendetta che gli anarchici san far. È questa la vendetta che gli anarchici san far. E Gaetano Bresci ci porta a un piccolo extra, che è l'unico canto che non parla direttamente di terra, ma sì parla di lavoro, e infatti avremmo forse dovuto inserirlo proprio nella nostra terza puntata dedicata al lavoro, ed è l'inno individualista. Adesso lo sentiamo eseguito dalle The Soda Sisters, che lo hanno riarrangiato assieme ai Matti delle Giuncaie, che cantano assieme a loro in questa versione, e lo hanno pubblicato nel loro disco del 2019, Arriverà l'estate, inno individualista, in La minore, e gli accordi ve li dico dopo. Mm. l'aria di morir nel fango della via. Imiteremo Bresci e Ravasciol. Chi tende a te la mano, borghesia, è un uomo indegno di mirare il sol. Le macchine stipendi dilaniano i presenti e pallide piangenti sta le spose ognor. Resta in campi incolti e minato sepolti e gli operai travolti da omicidi ognor. E a chi non soccombe si schiuda le tombe, sa presti le bombe, sa fili il pugnal. È l'azione l'ideale. Francia allerta sulla ghigliottina, leva il capo a chi punirla vuol. Spagna vil, garrotta ed assassina, fucile Italia chi tremar non suol. In America impiccati, in Africa sgozzati, in Spagna torturati a Montjuïc cognor. Ma la razza trista del signor teppista, l'individualista sa colpire ancor. E a chi non soccombe si schiuda le tombe, sa presti le bombe, sa fili il pugnal. È l'azione l'ideal. Finché siamo gregge è giusto che vi sia cricca social per leggi decretare. Finché non splende il sol dell'anarchia, vedremo sempre il popolo trucidar. Spirino di vite, se la dinamite vuoi scoppiare, udite contro l'oppressor. Abbiamo contro tutti spine e farabutti, e uno contro tutti noi li sperperemo. E a chi non soccombe si schiuda le tombe, sa presti le bombe, sa fili il pugnale. E a chi non soccombe si schiuda le tombe, sa presti le bombe, sa fili il pugnale. E a chi non soccombe si schiuda le tombe, sa presti le bombe, sa fili il pugnale. E a chi non soccombe si schiuda le tombe, sa presti le bombe, sa fili il pugnale. È l'azione l'ideale. Queste erano le The Soda Sisters che eseguono l'inno individualista assieme ai Matti delle Giuccaie. Gli accordi sono... La minore, Re minore, La minore, Re minore, Mi minore, La. Imiteremo Bresci e Ravasciol. La parte in maggiore prima del ritornello, la la la la la la la la la la la la re re re re la la la la mi mi la, tutti maggiori, e per finire tutto in la maggiore. A chi non soccombe si schiude le tombe, sa presti le bombe, sa fili il pugnale. È l'azione l'ideal. Mi maggiore la. Chiudiamo la parte su questo canto ricordando che forse il riferimento all'America che impicca si riferisce proprio ai moti del primo maggio di Chicago del 1886, in cui 8 manifestanti, che poi furono dimostrati innocenti, furono impiccati, appunto, e da quei moti derivano appunto anche poi le feste del primo maggio che continuiamo a festeggiare. Ma torniamo invece a Pietro Gori e a quella che dopo Addio a Lugano è forse la sua composizione più famosa, e sono gli Stornelli d'Esilio. Se si riferisca allo stesso esilio di Lugano questo canto, oppure a quello in Sud America sempre di Pietro Gori dopo i moti di Milano del maggio 1898, quando Bava Beccaris sparò sulla folla uccidendo centinaia di persone, che furono anche il movente di Gaetano Bresci quando uccise Umberto I, non si sa. Ve lo facciamo sentire eseguito dal coro di Inni e Canti di Lotta e Banda della Scuola di Musica Popolare di Testaccio con Giovanna Marini, da una registrazione che è stata pubblicata come CD doppio e libro nel 2017 e si chiama con un verso proprio di questa canzone ed un pensiero ribelle in cor ci sta. Colgo l'occasione anche per dirvi che il disco di Daniele Sepe da cui abbiamo tratto Partire partirò si chiama Canzoniere illustrato ed è del 2012, prima non ve l'avevo detto. E adesso gli Stornelli d'Esilio, che si fanno su due accordi, quattro perché qua si cambia tonalità in questa versione qui. Si maggiore, Fa maggiore, e Si bemolle maggiore, Fa maggiore, e poi Do maggiore, Sol maggiore sul finale. Molto semplice, sentiamoli cantati in coro come ci piace immaginarli cantati anche da tutte noi. Ah! E questi erano gli Stornelli d'Esilio, che è anche l'ultimo canto che Folk Oddio vi fa sentire in tutti e sei i podcast. Vi ha accompagnato per 6 puntate di Folk Oddio la Carlessa, da tavolo transfemminista queer di Macao per le canzoniere. Ringraziamo Radio Virus per aver trasmesso questo progetto. Vi ricordiamo che sul sito radiovirus.org sono accessibili tutti e 6 i podcast di Folk Oddio, non cantando, ma con la tarantella del 600 suonata dalla nuova compagnia di canto popolare, e ricordandovi che la nostra mail folk.oddio@canaglie.org è sempre attiva. Scriveteci, noi partiamo verso nuove avventure cercando di ricordare sempre le vecchie. Bacioni e sigla.